Lei apprezza la birra d'inverno, eh? Ma certo, la birra non ha stagione, specialmente a tavola. Anche perché l'appetito dell'inverno chiama la birra. Meditate, gente, meditate. Birra, e sai cosa bevi? Birra, e sai cosa bevi? Io l'ho sempre saputo. Buonasera dall'Accademia della Brusca con la B, da questa regia sovraffollata. Questa sera abbiamo gli invasori di campo. Siamo in ottima compagnia, Sì. Vogliamo annunciare i nostri ospiti o continueranno a farci gestacce alle spalle? Continueranno senza a farsi annunciati? I cacchi loro, bevendo, tirandoci le caccole e... Ecco, okay. Bravi. Allora continuiamo da sole, perché tanto non ci considerano. Ma che bello spot che abbiamo quest'oggi. Davvero, uno spot bellissimo che ci fa stare come un vaso di coccio tra i vasi di ferro. Ma che brava, hai centrato la puntata. Noi stiamo così per colpa degli invasori, esatto, della regia. Noi siamo de goccio. O de loro sono de ferro. Loro sono de ferro, li ho visti, sì. Sì, dalla regia qui della Brusca maledetta. Un saluto a tutti, a tutte, a tutz. A tutz. E come mai abbiamo aperto con questo spot? Perché giovedì gnocchi. e dacci carta bianca. No, ragazzi, avrete già intuito. Noi questa sera avevamo in mente di fare un'altra puntata. Poi la Neni è andata in libreria e ha trovato un libro, ovviamente. Potevo trovare un sacco di altre cose. Visto che ormai le librerie hanno tutto tranne libri. Esatto, anche il caffè. C'erano i cappuccini, c'erano un sacco di stronzate. Che buono. Ma vabbè, ho inciampato su un libro. Il libro che costava meno in assoluto, ovviamente. È un prezzo libro popolare, però sì, infatti. Che consigliamo ai nostri ascoltatori? Il libro di Sabrina Carollo, La vera storia di 400, frasi celebri e modi di dire, edito da Demetra. Costo di copertina 6,90 euro, per cui accattatevelo. Era tutto quello che avevo. Brava. Ce n'era un altro molto più bello, ma costava 18. Tre volte quello, e non che li avevo. Non si poteva, no. E quindi, come le ragazzine di 12 anni, vado in giro senza soldi in tasca. Con il rossetto trovato dentro a cioè, il profumo di Beverly Hills 90-210 e fai la sciantosa in giro. Perfetto. Quindi parleremo di modi di dire, ma non dei modi di dire così in generale. Hanno spento la luce. Guarda, si sta molto meglio. Ma che bello. Sembrano su RTL. Stiamo a luci spente. Siamo a luci spente. Come si chiama quell'evento che fanno? Quell'evento che fanno sulle altre radioserie? Mi illumino di meno. Esatto, noi aderiamo. Qui mi illumino di strobo, però. O di stronzio. Dipende. Allora, dopo questa bella attaccata al microfono che dà molto fastidio alle orecchie dei nostri poveri ascoltatori, sì, direi che possiamo possiamo che facciamo? Beh, partiamo dal primo, quello dello spot, dal, esatto, number one. Dal vogliamo dare number one. Bene. Decisioni, siamo nel capitolo delle decisioni. E abbiamo meditato. E abbiamo meditato, e meditate gente, meditate, è l'invito ironico che si usa per sottolineare una notizia particolarmente stupefacente o un comportamento inaspettato per chi ascolta, ma non per chi racconta. La frase deve la sua origine a Renzo Arbore, l'abbiamo riconosciuto dalla Renzo, come si dice? No, va bene. Renzo. No. Toscani, come si dice? Ma io scherzavo. Come si dice? Renzo. Renzo. Renzo. Renzo. Chissà. Possiamo dirlo come ci pare? Grazie. Grazie. Ecco, potrebbe essere anche Ozner, al contrario, vabbè, che la pronunciava con l'atteggiamento di chi la sa lunga, a conclusione di uno spot per la promozione del consumo di birra nel 1982. Meraviglioso! Geniale. La pubblicità, finanziata dall'Associazione degli Industriali della Birra e del Malto, sottolineava le grandi qualità della bevanda, quindi bevibile, anzi consigliata caldamente anche in inverno. Sentite un po' qua che accostamento di termini. Anche le foche bevono birra. Anche le foche bevono birra. E sembrerebbe fosse caratterizzata dallo slogan che ancora oggi la contraddistingue: birra e sai cosa bevi. E terminava con un payoff, appunto questo, rimasto nel gergo colloquiale, recitato da Arbore con il suo proverbiale tono ammiccante: meditate gente, meditate. E soprattutto gli è andata una frase senza R. Ecco. E questa è la prima delle diverse frasi che tratteremo come interiezioni e come modi di dire nella nostra bellissima puntata di oggi. Se ci leggi anche la numero 2, poi io vi farò sentire l'audio di questa. Ah, famosissima, famosissima, o così o pomì. Indica una scelta negata. Se in origine, ovvero una pubblicità della metà degli anni Ottanta, la frase stava a significare che l'unica alternativa possibile alla passata di pomodoro fatta in casa era appunto pomì, la passata di pomodoro in brick della Parmalat, a sottolinearne le qualità nella vulgata, oggi è diventata sinonimo di una non opzione, o così o niente. E quindi dell'impossibilità ad avere alternative. L'out out. Più o meno. Il significato è affine a quello del proverbio o mangi sta minestra o salti sta finestra, con però la qualità di un motto di rara efficacia e straordinario impatto, come nella migliore tradizione pubblicitaria. Perché stiamo parlando di pubblicità? Io ho appena smesso di lavorare, ho appena finito di scrivere queste cacchiate che voi sentite quotidianamente. L'ho fatto per mantenerti legata al tuo passato pomeridiano. Ecco. Però no, questa mi è sempre piaciuta molto, dello così o pomì. A casa mia si dice. Sì. A casa mia si dice. Ma penso un po' dappertutto, anche nelle case degli altri. A casa degli così altri. O pomì. Così o pomì. E sti cazzi viene spesso aggiunto però. Sì, dal figliolo. Allora ti farò sentire sì, proprio lei. Sì, sì, sì. No. Evidentemente no. Un'invasione di minoli. Pomì non dà tregua al cibo. Lo segue, lo circonda, lo inonda di sapore. Con Pomì il sapore non resta sul piatto. O così, o Pomì. Madonna che bella, io avrei tanto voluto essere in quella squadra di copywriter e di creativi che hanno fatto questa pubblicità spettacolare. Tra l'altro la pubblicità odierna, non so se vi è capitato di vederla, quella della Mutti con la poesia di Neruda sull'ode al pomodoro, in realtà riprende tantissimo da questa. Non l'ho vista. Il pomodoro come elemento, ovviamente, devi farci un sugo, come elemento quasi poetico, quindi sempre accompagnato o da versi decisamente, come dire, aulici, oppure da musiche classiche come queste, insomma, è sempre un protagonista conteso delle pubblicità. Bene, e tu prima hai detto birra e sai cosa bevi, no. Io ho cambiato l'ordine dei fattori e non resisto, quindi ti farò ascoltare anche questo. Dopo la sbornia di birra, che il giorno dopo che ci serve. Coca-Cola me lo porto a scuola. Coca-Cola. Partono grandi discorsi su Vasco Rossi e tutto ciò che riguarda la sua musica. Addirittura partono i diritti della Coca-Cola, guarda. Vasco Rossi è endorsement Coca-Cola o no? Se lo è stato, se lo è, se lo sarà. Vogliamo saperne di più. Questo era l'intervento di Naoto Da. Sì, sappiamo che ne avete abbastanza. Ne avete abbastanza e allora vi ritorniamo sui nostri passi. Con questo. Allora. Se succedono niente, oggi è un po' una puntata così. No, è bellissimo. La regia ha preso il sopravvento e non si sa. Non si sa cosa succederà. A volte lo fa. Questa stagione è un po' incerta, freddo caldo. Allora, siamo arrivati a D'Alema. Pensa come si salta da Vasco Rossi siamo a D'Alema. Siamo arrivati a D'Alema. A Moretti. D'Alema. Da Coca-Cola a Moretti. Capito? Con la sua barca vela che aspetta, ecco, ho il microfono un po'. Con la sua barca vela ci guarda da lontano, ci saluta con la manina. Ci ha anche riprovato di recente, ma non gli è andata giustamente, non gli è andata benissimo. E quindi possiamo arrivare al celebre detto morettiano di una cosa o qualcosa di sinistra. Vogliamo prima sentire l'audio? Sentiamo l'audio. Ci sta. contributo. Mi far vedere che tortura questa campagna elettorale. Speriamo che finisca presto. D'Alema, reagisci. Il problema oggi di questo paese è che dei giudici che sono nella magistratura perseguono degli avversari politici e non dovrebbe in un paese che vuole essere democratico essere consentito e che è impegnato ideologicamente possa aprire delle inchieste e giudicare colui che considera un nemico politico. Questo è il momento drammatico. D'Alema, rispondi, non ti far mettere in mezzo sulla giustizia proprio da Berlusconi. D'Alema, di una cosa di sinistra, di una cosa anche non di sinistra, di civiltà. D'Alema, di una cosa, di qualcosa, reagisci. Anche no. Di qualcosa. Qualcosa. Allora, e questo di con apocope di sinistra, di qualcosa di sinistra, è un appello accorato alla coerenza e all'espressione di una reazione, nello specifico ovviamente di orientamento dichiarato di sinistra. Tuttavia può essere utilizzata anche come incitamento generico alla resistenza e alla rivendicazione del proprio valore. La frase viene pronunciata da Nanni Moretti in una memorabile sequenza del suo film Aprile del 1998. Memorabile. E c'è bombe memorabile, vabbè. Sì. Quando... un po' meno di memorabile, dai. Moretti meno. Fai un film di sinistra. Moretti fa qualcosa. Moretti fa qualcosa. Quando il protagonista, mentre assiste a un contraddittorio trasmesso in televisione tra Berlusconi e D'Alema, pensate un po' che divertimento, incita quest'ultimo, incalzato dall'avversario e apparentemente senza argomentazioni, a reagire in modo deciso. Non mi far vedere che tortura questa campagna elettorale, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tutto quello che abbiamo sentito ora. E passa da D'Alema, di qualcosa, reagisci, D'Alema, rispondi, D'Alema, di una cosa di sinistra, di una cosa anche non di sinistra, di civiltà, D'Alema, di una cosa, di qualcosa, reagisci. E però aspettate, facciamo un passo indietro, perché noi siamo partiti, no, proprio così a gamba tesa, a campa tesa. Però per quale motivo abbiamo scelto questo tema? Ce lo spiega un pochettino l'introduzione. Mi è venuto in mente perché ho visto la Nenia che ha un po' ha riguardato i pezzi della volta scorsa. Ovviamente si parlava di un paio di settimane fa di Titi Villus, puntata che da quanto so ha avuto un grande successo. Ci hanno fatto i complimenti, sì, anche in birreria Sant'Ambrogio. Ha preso fuoco la regia, è saltato internet, si è sputtanato il cavo del computer. Publiacqua, cioè, Publiacqua ha levato l'acqua quando noi abbiamo mangiato le acciughe. Sì, quindi mamma mia, avevamo, l'unica volta che avevamo bisogno d'acqua. Che serata. Quindi sì, diciamo che ha avuto un gran successo, esatto, questa puntata sul demonio. Ha funzionato, e quindi stasera io mi sentirei più o meno di invocarlo un'altra volta. Ecco. Allora, questo libro... Tenete a casa i bambini. Tenete a casa i bambini. E i cani. Chiudete in casa gli anziani. I cani, mettetegli la museruola. I gatti, chiudeteli in casa anche loro perché sono i primi a scappare. Allora, cominciando dal principio, ci racconta la nostra Sabrina Carollo. Questo libro, senza grosse pretese, non vuole essere un semplice dizionario da sfogliare in cerca di curiosità. Vorrebbe essere uno stimolo a pensare come le cose possono evolversi, come gli errori, a volte, possono stimolare il cambiamento e come anche adesso qualcosa che ci pare irrilevante potrebbe in futuro sopravviverci a lungo. Di certo, eccolo qua, il monaco che sbagliò la trascrizione di Diebus Illis, dando vita al più clamoroso fraintendimento tramandato dalla storia, al punto da rimanere imperituro nei modi di dire, non avrebbe mai potuto sospettare un simile esito né una tale importanza in ciò che la sua mano eseguiva tutti i giorni. La fortuna e la fama sono debiti slack e imprevedibili. Nonostante tutta la nostra scienza, i calcoli delle probabilità, i diagrammi e i gesti scaramantici, non siamo assolutamente in grado di capire prima cosa davvero potrà funzionare e cosa no. Il bello dei modi di dire è anche questo. Chissà, quanti scrittori si saranno compiaciuti di una frase perfettamente riuscita, ben calibrata, rotonda nella sua compiutezza, e poi caduta completamente nell'oblio a vantaggio di un'espressione invece scappata fuori per caso, per sbaglio e senza troppa convinzione. Questo è quello che ci dice Sabrina Carollo, un po' come riflessione nell'introduzione di questo libro che ci accompagnerà in questa puntata. E un'altra cosa, per chi è assiduo dei social network e soprattutto legge che cosa scrivono cosa scrive il Movimento 5 Stelle, soprattutto i fan del Movimento 5 Stelle, si renderanno conto che il meditate, gente meditate, accompagna quasi tutti i post anti-vax, no-vax e via di seguito, insomma le altre cazzate che dicono. Ecco, scusate. Oh, ecco. Ecco. Bene, bene, quindi abbiamo detto meditate gente meditate o così o pomì di qualcosa di sinistra. Prima di lasciare spazio al meteo ci potremmo ascoltare un pezzo, anzi un contributo audio. Un contributo audio, sì, che dichiarerà apertamente di cosa parleremo. Che lavoro schifoso. Potrebbe essere peggio. E come? Potrebbe piovere. Ecco, potrebbe andare peggio. Potrebbe piovere. Potrebbe piovere. Sempre in tema, no, di diavolerie e di che cosa cazzo state facendo voi due? Scusatemi. Giocano alla morra. Scusate. Sono stati in Sardegna di recente e allora... Scusate. Sono come Aldo, Giovanni e Giacomo quando facevano... Questa la tagliamo nel podcast. I tifosi cagliaritani, che dietro c'è la scenetta. Io e te parliamo davanti alla telecamera e loro dietro giocano alla morra. E si prendono ammazzate. E così, stavano ridendo. Aio nonno. Un patagarro. E oggi è così, d'altronde non è che si può sempre filare tutte belline, belline, lisce come l'olio. Eh no, scusate, io mi sono scappata. Che cazzo sta... Questa ci introduce una puntata sul dialetto abruzzese che faremo molto presto. Ma che cazzo state facendo? Vabbè. Allora, potrebbe andare peggio, potrebbe piovere. È la frase di rito che si utilizza in modo scherzoso quando ci si trova in una situazione sgradevole o difficile. È un'esortazione a non lamentarsi, perché le cose potrebbero certamente andare ancora peggio. È tratta, ovviamente, dal film comico Frankenstein Jr. realizzato nel 1974 da Mel Brooks. Senti che accento, Mel Brooks. Ritorna sempre. Fantozzi e Frankenstein Jr. Sono ritornano sempre nello so, certo. Anche Fantozzi, Sì. Ragazzi, sì. che lui puntatona. E anche Totò, perché ora siamo nel pacchetto cinema. Sono, esattamente. Allora, ritornano i grandi classici, che te lo dica. Che siamo passati dalla TV al cinema. Eh sì, dagli spot pubblicitari, poi si passa al cinema e poi tutto il resto si vedrà. Ma siamo veramente, che ti devo dire, diaboliche. Sì, sì. E quindi nella pellicola il dottor Frankenstein. E il suo aiutante Igor si trovano nella difficile condizione di scavare per disseppellire un cadavere pesantissimo la notte in un cimitero. Alle lamentele del dottore "che lavoro schifoso", Igor risponde allegramente proprio con questa frase e ovviamente scatena il diluvio. Che bello. E insieme a questo tanti altri detti dello stesso film ci accompagnano. Quale gobba? Gobba? Quale gobba? Ululi. Castello Luli. Lupo Lula. Bellissimo. Vabbè. Eh sì, sono i grandi classici, inutili ragazzi. I nostri classici di riferimento sono questi quattro. D'altronde quando va bene Totò, poi c'è Fantozzi, poi c'è Frankenstein Junior e qualche volta Troisi. Manca Verdone, dobbiamo... Sì, giusto, Verdone è da un po' che non viene ritirato in ballo. Anche questo è stato il nostro cavallo di battaglia. C'è anche quello nel nostro libro. Benissimo, allora vi annunciamo che a data da destinarsi partirà la rubrica dei modi di dire della Brusca. E insomma, vedremo un po' come codificarla. Dalla settimana prossima. Assolutamente. Anche perché dobbiamo ancora continuare a regalare, dichiarare, tipo dichiarazioni di guerra. Associare a ogni trasmissione un detto. Ci mancano diverse trasmissioni che ancora non hanno ottenuto questo benestare dalla nostra trasmissione. Esatto. E allora potrebbe essere l'occasione giusta per continuare. Ho già trovato un detto per alcune delle trasmissioni nuove e vecchie che non avevamo ancora trattato. Io voglio sapere cosa vuol dire nudi alla meta, è bellissimo. Allora leggicelo, forza, prima che ti faccia ascoltare il prossimo. No, lo devo trovare prima, ah, per okay. cui... No, pensavo l'avessi già trovato, certo. Lo teniamo per la prossima volta. Bene, allora... Partiamo con... Uno dei nostri beniamini. Uno dei nostri beniamini. Ci sentite? Parte un po' così. Salutate in Totocamen il condottiero dell'impero! Mani di Tebe! Soldati! Richiamati, riformati! No, i riformati no! I riformati no! Quelli restino a casa! Vi ho radunati in questo pubblico deserto per annunciarvi che l'ora della riscossa è giunta! Popolo di Tebe, vuoi tu combattere contro l'Assiro, secolare nemico delle nostre genti? Sì! Bene! Hai fiducia in me? Quale tuo condottiero? Sì! Popolo di Tebe, lo sai tu che la guerra comporta tanti sacrifici e ogni genere di privative. È arrivato il tabaccaio. È arrivato il tabaccaio? No! Non è arrivato il tabaccaio. Non si può. Stai zitto. Vai avanti. Dunque, domani. Domani. E pari? Giornali? Giornali? Che c'è da viaggio? Ma che stai nella stazione? Che sono? Ma come lo fai? Stai zitto. Vai avanti. Domani. Abbiamo lance, spade, frecce, mortaretti, ricchi drac e castagnole. E con queste armi potenti, dico armi potenti, noi spezzeremo i neri, a Maciste e i suoi compagni, a Rocco e i suoi fratelli. Valoroso soldato tebano, mio padre da lassù, guarda e ti protegge, armiamoci e partite, io vi seguo dopo. Ma che dici? Stai. Avanti! Via! Hai rovinato tutto. Armiamoci e partiamo. Ci sentite ancora a casa? O in macchina dove ci sentite ancora? Giusto, ricordiamo in macchina all'1359 delle frequenze AM. Antimeridiane. Le frequenze antimeridiane, mi piace anche questo. Oggi mi piace tutto. Oggi sono di buona bocca. Sì, sì, sì. E quando potete risentirci? Se non ci ascoltate in diretta o dovete uscire? Ma lo so, l'ho studiato. Me lo sono scritto perché avevo appena imparato gli orari delle vecchie repliche. Poi ce le hanno tutte ricambiate. Allora me le sono scritte in un post-it dove posso leggere giovedì alle ore 20 la diretta. Sabato e domenica. Allora, sabato alle 18 e la domenica alle 15. Oh, guarda un po'. Pensa. Non è più alle 10. No, infatti, sono sì, probabilmente degli orari più carini per la brusca. Sì, perché diamo spazio negli orari più giovani, più brillanti alle trasmissioni un po' più musicali, più musicate, più, che dire, più da aperitivo. Che ne dici, radio 8 Hertz? Diventiamo Radio Monte... Ecco, 8 Hertz diventa radio, la nostra Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, musica di Congresso. Noi siamo un po' la prima... No, non siamo nemmeno... No, siamo la lingua batte della Rai 3. Sì. Della Radio 3. Sì. Batte, ma... Intanto è venuto un attacco di asma a qualcuno dietro le nostre spalle. Qui ci portano i bacilli, chissà, vabbè. È così. È partito lo starnuto. Senti, che ne dici? Visto che siamo passati al palinsesto, faccio anche la veloce carrellata dei social wombat. Sì. Allora, come sempre, sito dal quale probabilmente ci state ascoltando, wombat.noblogs.org. Poi abbiamo twitter.com/radiowombatfi, il facebook.com/radio-wombat-firenze. Per la mail invece è postawombat@enziberia.net, nella quale ci dovete inviare le nuove fotografie del wombat nel mondo. Stiamo aspettando nuovi adesivi sparsi per il mondo per arricchire la nostra pagina del sito, che se vedete in alto a destra compare la nuova paginina con su scritto Wombat nel mondo, e lì troverete pubblicata la descrizione, se la mandate, altrimenti ce la inventiamo noi o poco più. E boh, questo è quanto. Il nostro wombat che al momento sta aspettando, per cui si è imbarcato da qualche parte, stiamo aspettando che arrivi a destinazione e che ci mandi la fotina. Sì, abbiamo questa valigina sicuramente che gira, che viaggia insieme a lui. La vogliamo ricca di adesivi. Che bella la valigia di cartone con gli adesivi. Con gli adesivi del wombat. Sì, invece mi hanno dato questo. È un foglio diviso in due, con una bellissima grafica, molto elegante, devo dire, molto old school. Chic. E ci parla del 27 e 28 aprile al Next Emerson. Abbiamo uno stesso evento, una due giorni, suddivisa con due priorità. Una è quella del NEMA, quello che si disse la volta scorsa, è il Next Emerson Museo Autogestito. L'altro è l'evento che ormai da anni... occupa anima i mesi di aprile del Next Emerson, che è Brugole e Merletti. Finalmente questi due eventi si sono associati e daranno spazio a due giorni di workshop pratici di elettronica, di costruzione, autoriparazione, artigianato, live painting, installazioni, eccetera eccetera, e nonché alla pittura dei vari muri del Next Emerson. Quindi se siete costruttori, inventori, persone che vogliono imparare, elettricisti, pittori, elettricisti, musicanti di Brema, qualsiasi cosa, ma avete voglia di condividere il vostro tempo in compagnia, in ottima compagnia direi, Trombai. Sì, 27 e 28 aprile. Vi potete anche, iscrivere, prenotare per ottenere anche un pezzo di muro da riverniciare. Ci saranno delle installazioni, arti volanti o muri da dipingere. E quindi se volete partecipare, i contatti sono doityourtrash.noblogs.org, nema.noblogs.org, riferiti a entrambi gli eventi, rispettivamente Brugole Merletti e Nema Museo in Progress. E voilà. Quindi 27 e 28 aprile. Invece domenica, questa domenica, però uno dice sempre, no, la domenica che palle, non sappiamo mai che fare. È già lunedì e la domenica sera non si è fatto niente. E invece no, questa volta ci dicono che al Next Emerson c'è un evento. Ce lo vuole raccontare qualcuno o lo devo leggere? Dormendo. Bene, lo leggo io allora. Qui sì, funziona così. Lanciano la pietra, capite? Poi nascondono la mano. E allora ve lo leggerò io. Domenica dalle ore 18, correggetemi se sbaglio, in diretta. No, è giusto. Perché, ok. Dalle ore 18 abbiamo Bad Girl e Cereali al Neon più un autodate DJ set. Lo troviamo su Facebook. Domenica 17 marzo 2019 dalle ore 18 alle ore 20 al CSA Next Emerson, via di Bellagio numero 15. E poi abbiamo un bellissimo schermo di telefono tutto spiaccicato contro un muro che ci dice reading sonorizzato con musica. E sì, attento a non tagliarti le dita. Testo tratto dal romanzo Cereali al Neon di Sergio Oricci. Beh. E proiezioni dei quadri di Andrea Tivadar. Da qui non lo vedo perché c'era un taglio nello schermo e non mi permetteva di vedere, abbiate pazienza. E questo è il bello della diretta. Esatto. Che ci riporta sempre un po' anche a Renzo Arbore, perché iniziamo e concludiamo un po' così. Ecco. Esatto, sempre con lui. Bene. Ma insomma. Questo lo diciamo? Lo spieghiamo? Diciamo. Vogliamo prima sentire l'audio o preferisci prima deliziarci con una lettura? Volevo spiegarvi il perché dell'armiamoci e partite, che secondo me è abbastanza in linea con i tempi. Incitazione ipocrita ad affrontare di petto qualche situazione, a combattere, ma esentando se stessi dal fare altrettanto. È usata per indicare chi impegna gli altri ma non se stesso, chi è capace di roboanti dichiarazioni ma poi all'atto pratico si tira indietro e lascia gli altri a lavorare per qualcosa che ha deciso lui. La frase utilizza il linguaggio e le enfasi tipiche dei militari per ironizzare su un certo atteggiamento che sprona al rischio altrui. Secondo alcune fonti, la frase risalirebbe al 1895, quando, in occasione della guerra contro l'allora Abissinia, il poeta Lorenzo Stecchetti, pseudonimo di Olindo Guerrini, ironizzò sull'impresa usando queste parole. Di sicuro la frase fu pronunciata da Totò nel 1962 nel film Totò contro Maciste. Il protagonista Totò Kamen incita i soldati a combattere contro Maciste, appunto dicendo: popolo di Tebe, armiamoci e partite. Nel film Totò Kamen è appunto una specie di truffatore, un attore che si fa passare per figlio di una divinità e come tale invincibile, ma alla resa dei conti non è capace di affrontare il combattimento. Nel 1971 la frase fu adottata come titolo di un film anche di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Cultura, ragazzi. Su Radio Wombat. Bene, allora adesso ascoltiamo un pezzo musicale così ci riposiamo un pochino. Sì. Che ne dici? Sì. Thank you. Eccoci. Quanta solarità. Ti ho messo un pezzo allegro, così per tirarti su. Perché comunque il Dalkan non ci piace, quindi... Ecco. E quindi va benissimo, ma insomma... Tutta questa introduzione, questo era il Giardino Violetto, gruppo amico nostro di Roma. E questo era un pezzo del nuovo disco. Sì. Disco appena uscito. Sì, chissà se verranno a Firenze chissà, a breve. Chissà, bah. Chissà. Bah. Queste campane a morto ci ricordano qualcosa, giusto? Una notissima locuzione latina. Cara che mia. Fa più o meno come fa più o meno memento mori stupenda, ricordati, stupenda, che ci ricorda però anche parti divertenti della nostra cinematografia italiana. Ma leggici qualcosa, Orsù. Memento mori, il ricordati che devi morire, è motto di antica conoscenza, diffuso già al tempo di Tebe e dei suoi asceti, divenne comune con i monaci trappisti, ovviamente, c'entra sempre la birra, ordine fondato nel 1140, che se lo ripetevano in continuazione, brindando. Non una birra mica le cose a caso. Memento mori. Ecco, e quindi a noi piacerebbe però sentire tutto questo in un contributo audio. Forse lo farò. Forse. Ricordati che devi morire. Com'è? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me lo segno proprio. C'è una cosa... Non vi preoccupate. Lo sei segnato? Ce lo siamo segnati tutti quanti con questo bel rumorino di sottofondo. Ed è insomma la nostra interiezione dei nostri amici monaci trappisti. Ecco. Mo me lo segno. Me lo segno. Anche Troisi è sempre tra i nostri beniamini radiofonici. Però... Sì. Quindi insomma, andando avanti con questa parentesi di interiezioni, frasi celebri, modi di dire nel cinema, ne avremmo anche un'altra molto, molto, molto bellina. Molto, molto bellina. Allora, prima però di raccontarvela, io volevo, siccome abbiamo trovato altri modi di dire, a me piacerebbe parlarvi di una cosa che piace tantissimo, è il convitato di pietra. Allora, il convitato di pietra viene indicato in questi termini chi rappresenta una presenza inquietante e minacciosa, una persona sgradita che non si può evitare di far partecipare per la forza con cui si impone. È, diciamo, un po' carente di punteggiatura questo libro. Qualcuno che nessuno osa nemmeno nominare per quanto è temuto, il convitato di pietra. E... l'immagine appartiene alla leggenda di Don Giovanni, scritta nel 1630 da Tirso de Molina, un grandissimo commediografo spagnolo, e riproposta poi dopo da Molière nel 1665, nel cui testo il convitato è perfino nel titolo, Don Giovanni o il convitato di pietra, e diventa poi anche una pièce di Carlo Goldoni. E nulla, questo era un pochettino quando, non so, per Natale avete lo zio a tavola che mi sta un po' su, come dire, un po' pesante, lui è il famoso zio convitato di pietra. Lo zio che appesantisce la scena, ecco, mettiamolo così. Ognuno di noi ne ha uno. Quello che fa le battute sessiste e allora, ce l'ha, dice le robe destroidi, queste, esatto, robe, ah, quando tremende, ce l'ha lui, che non si possono sentire. Generalmente sì. Così, quando ce l'ha il fidanzato e quando c'era lui. Sì, è così. Vabbè, e la laurea, e il lavoro, Quando è che ti sei votato? Che hai votato? Gli emigrati? Aiutiamoli, ma proprio, a casa loro. È proprio lui, certo. Infatti, guarda, gli ultimi che sono andati a casa loro a aiutarli, che fine hanno fatto, hai con capito, l'aereo che è crollato, perché forse il software è più potente del pilota. Vabbè. Hai capito. Vabbè, ecco. Qui così, giusto per sdrammatizzare. Posso farti sentire 3 secondi? Dico 3 secondi di un mio amico? Sì. Ecco qua, ho questo. Vabbè, allora me lo saluti, questo avido signor Cesare. Come umano lei, pretoriano, molto umano, ciao. Arrivederlo. Come umano lei. Il nostro amico. Come umano, come buono. E come le come mille umane variabili del come qualcosa lei, mitico Fantozzi. Che una frase dalla portata sarcastica enorme. Chi la pronuncia lo fa per sostenere l'esatto contrario. Si usa infatti per sottolineare una carognata o comunque un atteggiamento cattivo o una richiesta particolarmente dura da esaudire e allo stesso tempo espressa con insolenza. Vadi, vadi, Fantozzi, vadi, sì, sì, vadi, questa. La frase è uno dei tormentoni di Fracchia, in realtà. Noi la conosciamo come in genere viene collegata a Fantozzi, però in realtà la frase è di Fracchia. E appunto il personaggio creato da Paolo Villaggio prima del ragionier Fantozzi, ma con caratteristiche del tutto simili. Il primo film che ebbe per protagonista questo personaggio fu Fracchia, la belva umana, del 1981. Ma lo fai benissimo. Diretto da Neri Parenti. Fu di molto posteriore alla creazione del personaggio e perfino ai film su Fantozzi. Personaggio che in realtà rappresenta una sorta di evoluzione di Fracchia, ma la cui nascita risale addirittura al 1968. Un mito del cinema italiano. Ma visto che continuiamo a parlare del mito del cinema italiano, posso farti ascoltare una cosa che non c'entra niente con i modi di dire, ma è meraviglioso, e visto che abbiamo aperto prima con Nanni Moretti sulla campagna elettorale, volevo far sentire questo. Siamo quasi in tema, esatto, per cui... esatto, volevo far sentire questo. Vadi, vadi, Nelio, vadi. Di film. Ci facci sentire. No. C'è un problema con l'audio oggi, scusate. Fantozzi, che sentiva molto col suo diritto dovere di cittadino, partecipò come sempre nell'incertezza, nell'indecisione e nella paura di sbagliare un'altra volta. Si mise allora a leggere di tutto, dall'estrema destra all'estrema sinistra. Signore, le manca solo il commercio sardo. Me lo dì. 50.000. Poi si dette malato e si chiuse in casa nella stanza della televisione. Ti va la merenda? No, niente, niente, non vedi che sto guardando? Ma sono 2 giorni che non mangi. Bene. Stammi a sentire, se io sbaglio il voto, questa volta va a finire che non mangiamo e non mangiate per una decina d'anni. Quindi, fuori, fuori, smammare, via! Oh, e fammi un caffè molto forte. Sì. Dalla mattina a notte fonda non perse una tribuna politica, né un comizio elettorale, né un dibattito a quattro, né un ping pong, né una tavola rotonda. Su tutti i canali esistenti, pubblici e privati, e su tutti e 3 i televisori di casa. Sballottato da tutte quelle informazioni e campane discordanti, andò presto nel pallone più completo e cominciò a soffrire di allucinazioni audiovisive. Digiuna con me, compagno Fantozzi, sarà una straordinaria dimostrazione per questi truffaldini partitocratici. Questa è una grande idea, il leader e l'ultimo cretino della base, cioè tu che fanno insieme lo sciopero della fame. Io che mi bevo solo dei cappuccini e tu che me li paghi. Sa, lei è un professionista, è abituato a digiunare. Io Fantozzi, invece... come si può vedere, non sono storicamente portato al digiuno. È un po' sì. Ma sono per una volta d'accordo con l'onorevole Pannella che è lei storicamente condannato a digiunare, caro Fantozzi, limitando i consumi. Ma ancora di più? Certo, vada a farsi praticare altri 4 o 5 buchi sulla cintura mentre io vado nella mia bella villa sopra Firenze e mi faccio un bel cotolettone panato con patate fritte. Io chiedo il suo consenso, caro Fantozzi, al partito di maggioranza sempre più relativa, soprattutto nell'interesse della sua salute psichica. Certo. Lei, dopo quasi 40 anni di uso e abuso continuo, democratico, cristiano, è diventato un DC dipendente. Esatto. Che fa senza il beato senatore Fanfani, benefico ogni uomo del suo focolare, e senza il santissimo rumor mariano? Buongiorno. E senza l'onorevole Rognoni, per tanti anni ministro dell'interiora. Ah, per questo Rognoni. Decida di sì, Fandozzi. O avrà una crisi di astinenza? Probabilmente letale. Letale. Non gli dare retta, compagno Fantozzi. Oh, salve. Tu sei lo sfruttato classico, sei il prototipo degli sfruttati. Ebbene, devi cambiare. Ma pettinatura. Ti devi rinnovare, devi cambiare sfruttatura. Li ha provati tutti, ti chiedo di provare anche noi. Ti assicuro che non siamo secondi a nessuno. Cioè... Vede, ragionier Fantozzi, se lei rapporta il mio partito, io le prometto... Questo scusa, volevo concludere con il mio conterraneo. Va avanti. Bellissimo. Per 10 minuti. Era Berlinguer quello? C'è stato Cossiga, poi c'era, ci sono tutti in realtà, non però appunto dura 10 minuti, quindi abbiamo deciso di risparmiarvi questo sacrificio, anche perché non vedendo la scena di lui davanti alla televisione perdete la parte più comunicativa dello spezzone, però insomma ci è piaciuto regalarvelo così, anche perché siamo alla fine. Tira e sì. Molla, tira e molla. Si sono fatte le 20:54 di questa nostra diretta del giovedì. Se ci state ascoltando invece in replica, non è più giovedì. E mi non dispiace. Sono più nemmeno le 20:55. 20:55,04. E quindi che dire? Che dire, vi lasciamo così, un po' con questo libro nel cuore. Era una spada nel cuore. Che sicuramente c'è anche quello in questo nostro libro nuovissimo. È molto probabile. Che sicuramente vi reciteremo la prossima puntata dell'Accademia della Brusca, perché abbiamo intenzione di confezionare degli altri modi di dire detto. Guardaci, da delle anticipazioni un po' così. Un io po' ve l'ho data dirle. L'anticipazione. Chissà, va bene, vediamo. Vediamo chi di voi. Diciamo che se le nostre amiche della Fuga del Gatto ci assistono, potremmo fare qualcosa di grande, di bello. In ogni caso, se non ci possono assistere per ovvie ragioni di impegni di tempo, sarà comunque una puntata dedicata a entrambe loro della Fuga del Gatto. Bene, allora vi lasciamo così. Tra un pochino arriva Otto Hertz a mettere un po' in subbuglio la regia con tutte le sue cosine diaboliche e diabolicissime. E basta. Vi volevo ricordare che oggi è la giornata mondiale delle patatine. Allora dacci subito una patatina. Eccole qua. Sentiamo lo strusciio. E noi vi salutiamo con un'onomatopea. Con la giornata mondiale delle patatine. Wow. La Brusca, l'unica trasmissione dove si possono trattare male gli amici in regia e mangiare in diretta. Yeah! E sbagliare l'audio 3 volte. È andata. Quello purtroppo succede. Ahimè. Noi vi salutiamo con un pezzo di Skip James, Devil Got My Woman, se non sbaglio. È una bellissima versione degli anni 40. Più o meno, sì. L'anno preciso non ce l'ho. Bello registrato proprio da questo vinile gracchiante, da questo disco. E noi ci risentiamo, se non in replica, giovedì prossimo, sempre alle ore 20 sulle frequenze di Radio Wombat. Bene, ciao, a giovedì. Un abbraccio. Ciao, ciao. sei mai. Yeah.